24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati. Dunque, due accordi storici in questi giorni: quello di ieri, firmato dopo 7 anni dal ministro Madia con i sindacati sugli aumenti nel pubblico impiego, e quello siglato tra i metalmeccanici, gli industriali e i sindacati nel loro settore, un primo passo che potrebbe naturalmente portare a un vero e proprio rinnovamento delle relazioni industriali. Ecco, Marco Bentivogli, buongiorno, leader della FIMCISL. Ecco, Bentivogli, i metalmeccanici hanno firmato un contratto che lei ha definito il più difficile della storia. Perché? Buongiorno. No, non la sento. Non la sento, non sento. È stato il più difficile e il negoziato lo ha dimostrato immediatamente. Credo che il suo telefono. Proviamo a richiamarlo intanto. Naturalmente questo è un contratto molto molto importante, Mario, no? Un passo avanti nelle relazioni industriali sicuramente. Ma sì, perché sulla carta ci sono molte novità. Scusa un momento, quando abbiamo di nuovo il contatto con Bentivogli me lo ripassate, grazie. Dicevo, sulla carta e anche nella sostanza a questo punto ci sono molte novità che poi vedremo con Bentivogli, quali saranno e soprattutto da realizzare alcune, e naturalmente bisogna vedere come. Ci sono passaggi sull'integrazione salariale, ecco, sulla formazione. Ecco, abbiamo chiedo scusa Mario, abbiamo di nuovo il collegamento con Bentivogli, ecco. Dicevamo, ripartiamo dalla prima domanda. Io le ho chiesto, lei ha detto il più difficile della storia, perché? A tutti, perché il contesto era niente, mi sembra che il telefono con Bentivogli funzionano malissimo, peccato. Una linea fissa, no, una linea fissa, una linea non fissa, la può trovare, ragazzi. No, magari era meglio dirgli una linea fissa. Va bene, allora dicevi Mario, no, ti dicevo che ci sono appunto degli spunti molto interessanti, molto nuovi sul fronte dell'integrazione salariale. Ci sono due livelli di contrattazione in questo caso. C'è un contratto nazionale che è una cornice ed è salvo, ed è questo che ha portato alla firma unitaria di tutti i sindacati insieme a Federmeccanica. E poi c'è una parte aziendale, diciamo che è quella variabile e che è la parte più interessante e innovativa. In ogni caso, quello che mi ha colpito di più di questo contratto, ed è anche una delle ragioni per cui noi ci siamo detti ma facciamo, certo, una cosa, sì, a Mix 24, sì, su questo, è che c'è stata una scarsa attenzione da parte, sì, la stampa ne ha parlato pochissimo, ne ha parlato poco, mentre invece la cosa era di grande importanza. Molto. In attesa che eventualmente riusciamo a ristabilire la linea con Bentivogli, abbiamo al telefono Fabio Storchi, presidente di Federmeccanica, che è riuscito, era la controparte di Storchi, ma anche e soprattutto la controparte di Landini, che ha firmato anche lui, cioè tutti i sindacati hanno firmato questo contratto. Dunque le relazioni industriali ritrovano una loro centralità, dottor Storchi? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Effettivamente noi lo riteniamo molto positivo, perché è un rinnovo che torna a essere stipulato da tutti e tre i sindacati maggiori, la FIOM, la FIM e la UIL, dopo 8 anni. Era da 8 anni che non c'era una firma unitaria del contratto, e questo è molto importante perché contribuisce a migliorare il clima. Certo, ma è l'inizio di quel patto per l'impresa di cui parla il presidente di Confindustria Boccia? Sì, credo di sì, anche se per noi è proprio il rilancio di un'alleanza impresa-lavoro. Certo, appunto, il patto per l'impresa. Il famoso fare insieme, sì, insomma, che abbiamo ascoltato anche dal Papa nel Giubileo di Confindustria. Certo. Beh, il fatto di affrontare questa crisi, questa difficoltà che le nostre imprese, il nostro comparto, che ricordiamolo, pesa per il 50% dell'industria nazionale, per il 50%. Quante persone riguarda? 1.600.000 lavoratori. Sì. E noi abbiamo perso dall'inizio del 2008 qualcosa come 26-27 punti di prodotto, di produzione. Sì. quasi un quarto delle nostre capacità produttive e stimiamo 280.000 lavoratori. Ecco, senta, ma i metalmeccanici, secondo lei, hanno firmato un contratto che può essere preso come esempio per gli altri settori adesso? Ma inizierà, come lei sa, inizierà adesso un negoziato, un confronto tra Confindustria e sindacato sulla definizione dei nuovi modelli contrattuali. Che tendono a stati fissati nel 93, ecco, questi, quello nuovo dovrebbe tendere a privilegiare la contrattazione aziendale, sì, no? E quindi penso sì che anche il nostro contratto possa fornire qualche spunto utile per questa trattativa che appunto nelle prossime settimane andrà avanti tra Confindustria senza, e sindacati. Senza, dottor Storchi, qual è l'elemento più innovativo secondo lei in questo contratto? Ma io riprenderei quello che lei accennavo prima, questo cambiamento da una situazione di conflitto e di divisione ad una situazione, un'impostazione di collaborazione. Noi abbiamo di fronte una sfida molto impegnativa con l'economia globale, le nuove tecnologie. Naturalmente. Bisogna portare avanti molta innovazione nelle nostre aziende, sì. Bisogna trasformare i nostri modelli di business, come facciamo impresa. E non lo possiamo fare da soli, lo dobbiamo fare insieme con chi lavora con noi tutti il giorno in fabbrica e in azienda. Questo spostamento di baricentro della contrattazione salariale dal centro, contratto collettivo nazionale del lavoro, all'azienda, al contratto di secondo livello, può veramente rappresentare una ricerca anche della via italiana alla partecipazione. Questo contratto, diciamo, dovrebbe favorire la valorizzazione della produttività. Sì, noi rimettiamo la persona al centro. Noi abbiamo presentato il nostro manifesto delle relazioni industriali, delle nuove relazioni industriali recentemente, e abbiamo messo la persona al centro, cioè il nostro motto è la persona al centro. Noi dobbiamo valorizzare sempre di più la persona, perché nella complessità della sfida globale e delle nuove tecnologie, pensiamo ad Industry 4.0, la persona ritorna veramente l'asset principale dell'azienda. Quindi in qualche modo fa la differenza. Ecco, in qualche modo una rivincita della concretezza sull'ideologia. Sì, noi abbiamo detto nell'assemblea di Brescia che abbiamo ridato valore alla figura, ai nipoti, pronipoti di Ciputi. C'è una figura, la figura dell'operaio di fabbrica, che era stato negletto, dimenticato dai media, dalla grande stampa, è tornato al centro dell'attenzione, proprio in funzione anche di questo confronto di rinnovamento sulle regole del gioco contrattuale, sì, che noi abbiamo impostato con la nostra piattaforma del 22 dicembre dell'anno scorso. E quindi ha trovato dei sindacati allineati su questo rimettere l'uomo al centro. Ecco, grazie, se resta in linea un momento perché abbiamo Bentivogli, speriamo. Buongiorno. Eccomi. Ci siamo? Buongiorno. Lei ha detto che ripartiamo dall'inizio, lei ha detto che era il più difficile della storia questo contratto, perché? Ma è più difficile, lo si è dimostrato subito, questo contratto arriva dopo 13 mesi di trattativa difficilissima, 20 ore di sciopero e con posizioni che erano molto inconciliabili. Federmeccanica voleva portare il contratto all'applicazione solo a 5% dei lavoratori, ma c'erano anche elementi di contesto, una crisi industriale che nel settore ha portato a 300.000 posti di lavoro. Infatti è quello che diceva anche. Esatto, la deflazione. Il tema vero è che il contratto dei metalmeccanici riflette un dato che molti fanno finta di riconoscere, e cioè che i sistemi di rappresentanza e le relazioni industriali sono fortemente in crisi. Esatto. E in questo contratto non si è fatto finta, abbiamo evitato di prorogare cose vecchie per stare in piedi. Pensato delle cose nuove. Esatto, abbiamo pensato insieme, e averlo fatto con la FIOM, che è stato l'elemento questi anni più conservativo e ideologico, di scontro anche fuori e con colpi sotto la cinta, è stato un doppio risultato. Ed è un doppio risultato perché cerca di rimettere in campo la rappresentanza e le relazioni industriali su basi nuove. Ecco, questo senta Bentivogli, Sui giornali però la cosa è passata quasi sotto silenzio, che è abbastanza sorprendente questo fatto, perché come sta dicendo lei e come ha detto prima Storchi, è invece un fatto nuovo e fortemente innovativo. Ma assolutamente sì, il giorno dopo la firma del contratto i più grandi quotidiani nazionali, uno aveva 9, l'altro 13 pagine sulla morte di Fidel Castro, che con tutto il rispetto credo che rispetto a un'intesa di questa portata su 1.600.000 metalmeccanici, ricordo a tutti che è il più grande contratto del lavoro privato in Italia. Ma lei come se lo spiega? Lei come se lo spiega? Scusi, come se lo spiega questa distrazione, questo silenzio? La legge come un atto volontario o una superficialità? C'è tutte e due, ma c'è soprattutto superficialità. Io ci ho scritto un libro su questa cosa. L'ho letto. Per 30 anni i media si sono dimenticati da quando la classe operaia non è soggetto rivoluzionario e la fabbrica il luogo della rivoluzione, e gli operai sono diventati un oggetto anche per l'intelligenza cosiddetta progressista. Cioè, non interessano più tanto, però questa mi sembra una grande rivincita. Una grande rivincita. Francoforte, meglio di me, dice: ma il mondo accademico, il giornalismo non si occupa più di lavoro perché non sono così esotici come il soggetto rivoluzionario. Ecco, senta, si vede anche perché vediamo in questi giorni quando si vanno a fare i servizi sui referendum. Chiama un'organizzazione schierata e si fanno parlare i tre che non rappresentano nessun altro. Certo, no? Naturale. Cioè c'è un modo di mettere le proprie opinioni in modo plastico tra i lavoratori che invece stanno andando da tutta l'altra parte. Senta, Bentivoglio. No, dica, sì. Sì. Volevo rimarcare che c'è un dato centrale di questo accordo. Il dato centrale è che dal 93 in poi e anche prima abbiamo vissuto attorno all'ambiguità dei due livelli contrattuali e si era indebolito il contratto nazionale e il contratto aziendale per colpa di un anche, cioè il contratto aziendale in fondo poteva fare anche quello che fa il contratto nazionale e viceversa, no? Qualcuno diceva il manchismo, ecco, questo anche ha tenuto insieme due culture, una della centralizzazione sul contratto nazionale e quella del decentramento. Esatto, i due livelli insomma. Esatto, alla mia cultura. Con grandi, in realtà in Italia i sostenitori del decentramento contrattuale sono assai pochi, perché anche molte aziende preferiscono avere solo il contratto nazionale, perché come diceva il fondatore della mia organizzazione, Giulio Pastore, aziendalmente l'azienda e il lavoratore vive un luogo di partecipazione che spesso può essere scomodo, certo, nelle relazioni industriali, però è lì che si crea la democrazia di tutti. Ecco, senta Bentivogli, scusi, no, perché sennò andiamo molto lunghi. Dovrebbe essere un modello da seguire quello del vostro in altri settori, quello che avete fatto voi? Ma io penso intanto che abbiamo fatto tantissimo averlo fatto per i metalmeccanici. Naturalmente. Poi le confederazioni faranno sintesi e valuteranno quelle che sono le cose. Io credo che l'importante sia la direzione. Certo. La direzione è puntiamo erroneamente a caricare, visto che io ho detto una cosa un po' fuori dal coro, ho detto la deflazione è un'occasione di decentramento, non di carico di altri elementi fuorvianti del contratto nazionale. Qualcuno invece ha detto mettiamo la produttività e il PIL nel contratto nazionale. Questo significa caricare il contratto in modo nazionale in modo efficace e di una media, io penso al mio settore, la media di produttività è negativa, per Senta. Cui da inflazione negativa aggiungiamo produttività negativa. Senta, Bentivogli, ma tra il 19 e il 21 dicembre comunque il contratto verrà sottoposto a un referendum tra i lavoratori. Pensa che passerà facilmente o ci saranno resistenze? Ma io sono sicuro che i lavoratori capiranno che che hanno già capito, sono un po' una parte di gruppo dirigente che crede che il salario è variabile indipendente. Beh, vabbè, quell'epoca è finita, credo. Insomma. No, non ancora. C'è chi dice ancora. Senta, lei ha sentito nel momento in cui noi abbiamo firmato l'accordo di Pomigliano con uno dei più grandi giornalisti italiani che ha scritto che l'abbiamo scritto nella carne e nel sangue dei lavoratori. E quello ha fatto ripartire la Fiat, cioè questa infatti è la narrazione che si fa sul mondo sindacale, per cui io invece cioè, c'è da riscoprire il racconto del mondo della produzione, questo è il fatto, dall'economia virtuale all'economia reale. Esattamente. Ecco, senta, lei non so se ha sentito Storchi, il presidente di Federmeccanica, prima, ecco, c'ha una domanda da fargli? a Storchi? Sì. Ma intanto un ringraziamento sul fatto che siamo andati alla fine, nella fase finale, abbiamo capito che si fanno gli accordi non ferendosi. Quella, l'idea che un contratto esce da una parte che piega l'altra, no, fa parte di una situazione da Far West che non esiste più, molto importante. Ma a Storchi io voglio solo dire una cosa, non so se è una domanda. Ora il momento importante è la gestione, perché certo, l'innovazione se non è praticata nelle aziende resta materia da convegnistica e non ci interessa. Io sono sicuro della buona fede di Storchi, perché nella sua visione c'è una visione che ha degli elementi omogenei rispetto alle valutazioni che facciamo noi, per cui io mi auguro che si impegni insieme a noi a applicare questo accordo, ecco, e gestire prima, per costruirla. D'accordo, prima di chiudere una battuta, Storchi, lei ha Bentivogli? Pronto, no, Storchi? Credo che siamo molto soddisfatti del risultato, dobbiamo ringraziare sicuramente anche i nostri interlocutori del sindacato, perché hanno portato avanti con noi questa strada di rinnovamento, convinti che è l'unica via per consentire un rilancio di un settore che ha sofferto tantissimo. E credo che giustamente siamo di fronte ad un contratto molto innovativo, quindi dovrà essere gestito con grande attenzione all'interno delle imprese. Va bene. Quindi grande responsabilità in capo agli imprenditori, grande responsabilità in capo al sindacato. Insomma, stamattina abbiamo... stamattina abbiamo potuto parlare di una cosa importante, innovativa, che mette la persona al centro degli accordi sindacali, e credo che questo possa diventare un metodo che si può estendere ad altri settori, d'accordo? Per tornare con una battuta. Una battuta perché siamo in chiusura. Sì, sul fatto che sia stata data poca pubblicità a questo accordo. Noi dobbiamo riportare al centro dell'interesse del paese l'impresa. No, naturalmente, questo è l'impresa che crea lavoro. Perché è l'impresa che crea lavoro, che crea ricchezza. Esattamente. E quindi deve diventare centrale rispetto alle politiche del governo, del Parlamento. Ma forse, e all'attenzione del paese. Forse qualcosa sta cambiando anche grazie ad accordi fra imprese e sindacati come questo. Grazie a entrambi. C'è però anche una notizia diversa, una notizia che per quanto contraddittoria può sembrare inizialmente negativa, perché è quella della bocciatura della riforma della pubblica amministrazione da parte della Corte Costituzionale. Bocciatura però che è superata dall'accordo di ieri tra il governo, il ministro Madia e i sindacati, che dopo 7 anni hanno concluso la trattativa per il contratto che riguarda 3 milioni di persone. Ecco, professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, della Corte che aveva bocciato questa norma, lei ha criticato la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la riforma della pubblica amministrazione. Perché l'ha criticata? Perché sostanzialmente introduce in Italia un sistema di colegislazione, costringe il Parlamento a mettersi, prima di decidere, d'accordo con le regioni. Ma è questo l'aspetto più grave della decisione della Corte? Non è solamente questo, è anche quello dei tempi. Perché? Perché questa sentenza è stata depositata a metà tra una delibera del Consiglio dei Ministri e la firma da parte del Presidente della Repubblica. E quindi è una sorta di giurisprudenza progressiva a proposito della decisione? Direi piuttosto regressiva. Regressiva. Ecco, di fatto questa sentenza dimostra che la riforma del Titolo V è più che mai urgente, così? Ma certo, perché questo libera lo Stato da un vincolo che praticamente è caduto sulle spalle dello Stato a causa di questa sentenza. Ma dopo questa sentenza, se ho capito bene, una regione da sola può bloccare tutti i processi decisionali, quindi è impossibile legiferare, così professor Cassese? Sì, perché è portato all'estremo il ragionamento per cui il governo può legiferare sulla base della delega del Parlamento nelle materie che riguardano le regioni solo con l'intesa delle regioni, certo, conduce a un sistema, diciamo, consociativo allargato. Certo, si contraddice praticamente. Cioè siamo un paese che ha fatto un passo indietro con questa delibera. Con questa sentenza della sentenza, Corte Costituzionale, sì, certamente è stato fatto un passo indietro rispetto a un paese pluralistico dove ognuno può decidere liberamente, e poi ci sono i punti di equilibrio che sono determinati dalla politica e dalla giustizia. Ecco, a proposito di politica, è noto che 7 giudici della Consulta su 14 nella tale plenum sono antigovernativi. Lei pensa che questa situazione può aver inciso sulla decisione della Corte? Non la seguo e non mi voglio addentrare in questi arcana imperi. D'accordo. Anche perché non penso che ci sia il problema governativo o antigovernativo. Francamente credo che sia stato uno scivolone e basta. Però, professor Cassese, è singolare la tempistica della decisione, almeno questo. Questo sì, ma questo non dipende dal collegio, ma dipende dal relatore e dal presidente. Mm. Senta, secondo molti, io sono malizioso, c'è stata una fortissima pressione sulla Corte da parte dei mandarini dell'amministrazione dello Stato. È una lobby che esiste, può premere? Forse qualcosa di più di mandarini, perché stiamo parlando di un universo costituito da 20-25 mila persone. Ah. Quindi una lobby potente. Più che potente, numerosa. Mm. È ovviamente ascoltata. Il disegno del governo era un disegno molto generale che coinvolgeva la sicurezza del posto, certo, di tutte queste persone, e quindi è possibile, è probabile, certamente si sono fatti sentire, è possibile che ci sia stata una pressione, insomma, ragionevole. La cosa singolare è che tutto questo si doveva svolgere nel corso del mese di luglio dell'anno scorso, perché tutto questo era già stato scritto in una legge che richiedeva solo dei decreti attuazione. Sì. Guarda caso, questa reazione c'è stata nel momento di maggiore debolezza del governo. Mm. Ma la riforma della pubblica amministrazione, così come era pensata, poteva essere una scossa reale alla pubblica amministrazione? Questo certamente, e in gran parte lo è, perché rimangono in vita numerosi, certo, altri provvedimenti, sì, ed altri molti possono essere corretti. Senta, ma perché è così difficile far passare concetti come qualità e merito nella pubblica amministrazione? Perché per troppi anni il merito non è stato rispettato, e perché il modo principale per far rispettare il merito è quello di fare concorsi, cioè esami comparativi sulla base delle qualità e dell'esperienza, e quindi le persone si sono disabituate. Senta, professor Cassese, ma può spiegare brevemente che cosa è e a cosa serve il ruolo unico dei dirigenti dal punto di vista del miglioramento della pubblica amministrazione? Ma guardi, intanto questa riforma prevedeva 3 grosse categorie: statali, regionali e comunali, e con una comunicazione interna. Certamente servirebbe a realizzare maggiore mobilità all'interno della pubblica amministrazione, cioè a consentire uno scambio di esperienze, invece di avere un'amministrazione ad alveare, avere un'amministrazione dove c'è maggiore circolazione. Quindi, in definitiva, riassumendo quello che abbiamo detto, questa sentenza della Corte in qualche modo è una sentenza politica. Sentenza politica, direi che, come molte sentenze della Corte Costituzionale, ha delle implicazioni importanti che sono state ingigantite dai modi e dai tempi. Spesso si fanno delle cose giuste nei modi sbagliati e nei tempi sbagliati. Certo, questi tempi sono sospetti. Una cosa sbagliata nel modo sbagliato. Un tempo sbagliato. Beh, insomma, alla fine siamo un paese che ha fatto un passo indietro, quindi. Guardi, tutto è rimediabile, però. Tutto è rimediabile, il passo indietro c'è stato. Io mi auguro, dato che la legge comunque continua a esistere, certo, io mi auguro che questo governo, un successivo governo, voglia riprendere e riaprire la delega, seguire gli orientamenti della Corte Costituzionale, e mi auguro anche che la Corte Costituzionale voglia rendersi conto di una cosa fondamentale, e cioè che quando si cambia giurisprudenza non si può dire da un momento all'altro. È questo che dicevamo, sì. Bisogna cambiare giurisprudenza per il futuro. Certo, non per il passato. In corso d'opera, anzi, perché questo è in corso d'opera praticamente. Senta, un'ultimissima cosa, professor Cassese, la ringrazio. Se lei fosse un giudice della Corte Europea, come giudicherebbe quello che è successo in Italia? Ma guardi, i giudici della Corte Europea in questo caso non entrano su queste materie qui perché non è parte della loro giurisdizione. Certo giudicherebbero negativamente il fatto che dopo tanti tentativi, questo non è il primo tentativo sulla dirigenza, qui si risale agli anni 70 con la famosa legge Andreotti, e quindi giudicherebbero negativamente il fatto che cioè non si riesce a fare un passo avanti, insomma. Si gira sempre intorno ad un problema che non si risolve, cioè avere alla sommità dello Stato delle persone qualificate, non nel senso che oggi non ce ne siano, ma nel senso che siano tutte qualificate allo stesso livello di quelle migliori che oggi ci sono. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Comunque con l'accordo di ieri in qualche modo si è aggirato anche l'ostacolo della Corte Costituzionale, almeno per una parte, perché l'accordo fra il governo, il ministro Madia e i sindacati ha trovato una composizione che riguarda 3 milioni di persone dopo 7 anni, no? Mi sembra un passaggio comunque positivo. La sentenza della Consulta resta, cioè certo, lì, quella resta, purtroppo mi sembra che una Cassese in qualche modo non respinge l'idea che sia anche una sentenza, diciamo, che ha dei tratti per il suo tempo, per la tempestività e il momento della scelta singolare. Cioè, voglio dire, sulla legge elettorale hanno rinviato, no? Per ragioni di opportunità. Qui no, hanno deciso. Insomma, che dici tu, Pietrangelo? Arcana imperi, come ha detto lo stesso. Esatto, gli arcana imperi sono stati esercitati questa volta in un altro modo. E certo, poi bisogna anche considerare che c'è una guerra sotterranea tra quella che è una sorta di scheletro che accompagna la nazione, cioè l'alta burocrazia, e poi la politica. Temo si debba però dare un punto a favore comunque allo scheletro, perché tutti i passaggi cruciali della nostra storia, perfino l'Unità d'Italia, il passaggio dal fascismo alla Repubblica Italiana, hanno visto onnipresente la burocrazia, che si è trasferita da un punto all'altro, e solo raramente c'è stato il cosiddetto spoil system. A dire il vero, lo fecero uno spoil system quando sostituirono le forze di polizia nel sud coi malacarne. Questo accadde nell'Unità d'Italia. Vabbè, torniamo indietro. Ok, insomma, però questa lobby della alta burocrazia, secondo te, ha inciso, Mario, sulla decisione della Corte? Sì, assolutamente. Poi Renzi, secondo me, ha compiuto un paio di passaggi sbagliati all'inizio della sua avventura, alcune nomine a Palazzo Chigi che hanno, come dire, irritato i cosiddetti mandarini, con i quali in realtà tu devi sempre fare i conti. Ma i mandarini servono o non servono? I mandarini no, sono la continuità dello Stato, ma in positivo o in negativo? Chiamiamoli meglio. Servono alti burocrati servitori dello Stato professionalizzati. Non servono inamovibili dirigenti pubblici che fanno i frenatori. Che fanno i frenatori e che costituiscono un potere parallelo a quello invece legittimamente eletto, cioè il Parlamento e il legislatore. La dico banale, proprio da bar. Serve quello che invidiamo da sempre alla Francia, una scuola di formazione. Le grandi col che formano, gli alti burocrati. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, SMS, pubblicità. Mix 24. E allora, Pietrangelo, che ci fai sentire? Arriva Lord, I don't know which way I am going, which way the river gonna flow. It just seems that upstream I keep rolling. Allora c'era tutto un passatempo di divinità liquide. Oggi, all'isola Tiberina, a Roma, attraversavo il ponte di Viale Trastevere verso arenula e si poteva scorgere l'assembramento di amici carissimi arrivati da ogni dove per festeggiare il Tevere. E c'era infatti Gange, quindi Tamigi, poi Neka e anche Neva. Ha chiamato Demetra, ha voluto questo brano con un messaggio per Barba Blu. Il freddo è fuori, ma primavera è nel cuore. Ma quanti chilometri a piedi fai tu tutti i giorni? Ho calcolato perché c'ho l'applicazione sul telefonino, sono 17 in media. Ah, tutti i giorni, infatti si vede se è bello tirato. Mario, ti farebbe bene a te fare 17 km, anche a me, eh? Io non ci penso. Solo le nostre Alessandre non servirebbe niente. Detta all'antica, la ginnastica fa male. Allora c'è una bolla. Sì. Intanto un grande pezzo degli Yes questo, Owner of a Lonely Heart, bellissimo. Allora Giovanni, allora, il governo Trump piano piano prende forma. Sì, beh, direi che ha fatto un sacco di scelte molto interessanti. Molto interessanti. Ai cospirazionisti segnalo che è arrivata Goldman Sachs al tesoro, così possono fare tutti i loro giri. Insomma, mi sembra che il modello Reagan si avvicina. Sì. Anche più hard, più pro business, cioè è un gabinetto, un'amministrazione che è disegnata su alcune figure che saranno chiave, tipo Wilbur Ross al commercio. È una scelta molto, molto, molto importante, no? Sui trattati commerciali, appunto, la globalizzazione, è uno che ha le idee molto chiare su questo, cioè riscrivere tutto. Cioè tutti i poveracci del governo, mi sembra. Sì, la notizia, diciamo, tra virgolette, che poi non è neanche una novità nella storia americana, no, certo, è che è uno dei, delle, forse l'amministrazione, anzi senza forse, l'amministrazione più ricca della storia moderna americana. Solo Wilbur Ross ha un patrimonio di 2.5 miliardi dollari, Washington Post faceva un po' i conti, la Betsy DeVos è una fortuna familiare da 5.1 miliardi di dollari. Almeno magari non rubano. Ma questo è sicuro. Già fatto. Ricordo che avevano gli americani al tesoro avevano Mellon, che era il rappresentante di una dinastia di finanzieri assoluta, all'epoca poi dei baroni, diciamo, dell'industria americana. Washington era... Ma com'è che chiamava Eisenhower il suo governo? Ah, stupendo. Nove milionari e un idraulico. Nove milionari e un idraulico è il governo ideale. Sì, eh? Sì, in inglese era Nine Millionaires and the Plumber. Hai capito? Adesso il milionario è l'idraulico. Il milionario è l'idraulico, ma certamente. Salamino! Uno entra e 101 escono. Romano Prodi entra nell'esercito del sì al referendum del prossimo imminente e ormai arrivato 4 dicembre e i 101 parlamentari renziani che lo impallinarono quando il professore fu candidato alla presidenza della Repubblica escono allo scoperto. Musica! Al Quirinale oggi c'è Sergio Mattarella. A Palazzo Chigi c'è quello che ancora ieri, dichiarando il proprio sì, Romano Prodi definisce esclusivo, nel senso che se ne sta solitario ed escludente, cioè c'è Matteo Renzi. Ed è quello, e sono sempre parole di Romano Prodi ancora ieri, ha strumentalizzato la storia dell'Ulivo rivendicando a sé il disegno che aveva contrastato. Insomma, uno entra e 101 escono, anzi no! E la carica dei 101, i renziani che appunto impallinarono ieri, proprio oggi lo festeggiano facendo marameo ai musi lunghi degli ulivisti di lungo corso, ossia Franco Monaco che vota no, Rosi Bindi che, per dirla col linguaggio dell'antimafia, tale è presidente dell'antimafia, mussia, insomma, sicata mia, cioè fa una toccatina di polso per vedere come va a finire, mentre invece Miguel Gotor, che vota no, ieri ha contato 101 dichiarazioni, tutte a favore di Romano Prodi. Potevano spostarle il giorno che si votava al Quirinale. Comunque, arrivate in ritardo. Ormai deciso a votare sì, se lo fa convinto delle ragioni del no. Ed è, Giovanni, se ci pensi, un po' come, al contrario, il suo gemello separato, cioè Silvio Berlusconi, che convinto delle ragioni del sì ha deciso di votare no. Altro che Plutarco, altro che vite parallele, qui urge un vocabolario di latino. Aiutami, aiutami Giovanni. Simul stabunt, simul cadent. Oh, stanno insieme e insieme cadono. Viva l'Italia, viva la patria. Musica. A me sembra che ci voglia un trattato di psicologia. Sì, psicologia, psicanalisi, piuttosto, tutto intrecciato. Piuttosto anche corposo. E infatti, mussiano, catamiano, toccatina di polso. Sono parole particolari, hai capito? Che la Presidente che dell'Antimafia conosce. Conosce. Senti, c'hai una bolla, Maria? Sì, è una curiosità molto bella. Questo era un Michael Jackson, dannata, bellissimo, Beat It. Questo è un album strepitoso, cioè, record stellare di vendite. Allora, è morto Michael Jim Delligatti, che non è un regista indipendente di Hollywood, non è uno scrittore di nicchia, talmente di nicchia da essere celebrato sulle pagine del New Yorker, no. Jim Delligatti è semplicemente, inesorabilmente, il creatore del Big Mac. Lui era uno dei proprietari di un ristorante in Pennsylvania. Nel 67 creò il Big Mac. Tieni presente, McDonald's per un anno non se lo filò proprio. E poi alla fine esplose questo fenomeno di costume, di stile, di consumo di massa, fino a che è venduto oggi in 100 paesi. È una storia meravigliosa, lui è morto. Ma come ha fatto a brevettare un panino? E lui ha creato la ricetta, poi l'azienda se ne è accorta e è diventato il Big Mac. Sì, ma lui prendeva una quota su ogni panino venduto. Non ha mai, la cosa stupefacente è che Delligatti, secondo quanto dichiarato, lui non ha mai preso una royalty per questo. È diventato però, perché è un businessman molto abile, uno dei principali proprietari di ristoranti di McDonald's in America. Ne ha aperti ben 48. E se l'è goduta perché è morto a 98 anni. Sì, ed è un simbolo, un'icona particolare, insomma, della storia del costume americano. Canzoniere! Solo tu, Ivan, conoscete questa storia. Ivan la conosce da molto tempo, ma Ivan è una tomba. Alyosha, devi credermi. Anche allora amavo Katia, ossia la odiavo. Amore e odio non si assomigliano, forse. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Aiutino? Piccolo? C'è Ivan, mi raccomando. Allora lo ripeto, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Mix 24. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Plata o plomo, soldi o piombo. In due parole, la strategia di Pablo Escobar, il più ricco e il più famoso trafficante di droga di sempre, protagonista delle prime due stagioni di Narcos, serie televisiva di successo mondiale. Colombiano, a capo del cartello di Medellin, negli anni 70 Escobar diventa padrone dell'80% del traffico globale di cocaina. Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Venezuela, Stati Uniti e Europa, i mercati del suo impero criminale. Denominato il re della cocaina, arriva a guadagnare 420 milioni di dollari a settimana. Ad un certo punto, Escobar era arrivato a inviare in America aeroplani zeppi di cocaina. Il velivolo sganciava il carico in mare, al largo o in qualche zona clandestina, per poi tornare pieno, stracolmo di banconote da 20 dollari. C'è stato un momento in Colombia in cui i soldi non venivano più contati, venivano pesati. In 20 anni di carriera criminale fa uccidere più di 4.000 persone. Ma stadi di calcio, scuole, case popolari, asili e ospedali costruiti ne fanno per gli abitanti di Medellín poco meno di un eroe. Evviva Pablo Escobar! Grazie per le vostre parole gentili. Dunque, il 2 dicembre del 93, Pablo Escobar muore nella sua città Medellín in uno scontro a fuoco, una morte che è un vero e proprio giallo. Lo raccontiamo dopo il giornale radio, ma intanto adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of Bone and Joint Surgery, settembre 2016. Iniezione di acido ialuronico per il trattamento dell'osteoartrite di ginocchio grave. Un mucchio di studi controllati hanno dimostrato l'inefficacia dell'acido ialuronico nel trattamento dell'artrite di ginocchio, tanto che l'American Academy of Orthopedic Surgeons, cioè gli ortopedici americani, raccomanda di non far uso di questo trattamento. Quindi, se avete l'artrite di ginocchio, non fatevi l'acido ialuronico. Sono andati però i ricercatori a vedere se questa linea guida era smentita dai medici americani, nel senso sono andati a vedere se chi è che poi veniva sottoposto alla protesi di ginocchio, perché l'artrite era molto grave, nell'anno precedente all'intervento chirurgico per protesi era sottoposto a terapia con acido ialuronico. Bene, nel 15% veniva fatta questa terapia con una media di quasi 4 trattamenti. E allora i ricercatori americani si sono posti il problema: ma perché viene fatto un trattamento che viene sconsigliato, tanto più in soggetti che sono talmente gravi da necessitare poi di una protesi sostitutiva? Sapete qual è il motivo? Il vil pecunio, nel senso che ogni applicazione costa $310, per cui si va a un totale di $1,128 per le 4 applicazioni medie, e quindi questo spiega perché, nonostante l'inefficacia, si faccia l'acido ialuronico in chi è che ha l'artrite di ginocchio e che debba invece essere sottoposto alla protesi, perché è l'unico trattamento vero. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi attende tutte le stanchezze che il futuro porta con sé, perché ne ha fame ancora. Pino Daniele, Quando. Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa, chi importa. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora.